what we got here, fucking comedian. He is so sick, so dumb, so bone kid. I bet you can suck a dog fall through a garden hose. tutti, aspettiamo altri 5 minuti e iniziamo. Fateci sapere se ci sentite bene. eccoci qui. Di nuovo buonasera a tutte e tutti, a chi è riuscito a collegarsi. Siamo buonasera. In diretta ovunque, su tutti i nostri canali. È la nostra prima volta, quindi abbiate pazienza. Ecco. Sì, esatto, buonasera. Buonasera, allora siamo qui e come potete vedere non ci vedrete in faccia, vedrete solo il nostro banco da lavoro. E perché siamo qui oggi? Perché vi abbiamo invitato? Perché abbiamo dovuto interrompere la programmazione, insomma, a causa di questo virus che gira, e quindi vi volevamo anticipare un po' quello che sarà il prossimo corso di musica elettronica che riprenderemo appena si ritornerà in presenza. E allora, l'idea era questa, presenteremo... Questo è un primo appuntamento, ce ne sarà un secondo, e questo perché? Perché questo corso sarà diviso fondamentalmente in due parti. In due parti, la prima, che sarà quella che insomma vi anticiperemo oggi, non sarà proprio, sarà una presentazione un po' giocherellosa così, e parlerà appunto dell'approccio alla console, quindi si partirà dai piatti e dai CDJ. E la seconda parte del corso, che si terrà il prossimo giovedì 27, e invece è sull'iniziare, insomma, vi sto parlando io che non so di questa roba qua, però abbiamo l'esperto. La seconda parte sarà sul diciamo la parte live, quindi sintesi e sound design. Perché abbiamo iniziato a fare questo corso, vogliamo iniziare a fare questo corso perché è per fondamentalmente iniziare a mixare e autoprodurre musica elettronica. Ma sì, soprattutto, ecco, magari per i non addetti ai lavori, insomma, questo è bene specificarlo, no? Però sì, esatto. Proprio perché se una sera voi vi sentite che avete una voglia matta di suonare, ecco, questo è quello che fa per voi. Musica maestro. Anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. Anche se non possiede niente, è padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. È padrone del proprio destino. Destino. Lo so, conosco a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio dalla culla alla scuola e poi dal pulpito. Siate poveri di spirito, siate umili di mente. Rinuncia alla ragione. Spegni quella luce abbagliante dell'intelligenza che ti infiamma e ti consuma. Perché più saprai, più sarai destinato a soffrire. Rinuncia ai tuoi sensi. Sii prigioniero della santa fede. Vivi nel tuo stato asinino. Vivere a questo modo è vivere da morto. Siamo qui per presentarvi il prossimo corso, E naturalmente le date, gli orari sono ancora da definire, saranno il tutto si capirà anche in base alle adesioni, quindi vi invitiamo a scriverci sul nostro account Instagram, Facebook, Twitter, mandateci un SMS, va bene uguale. Un po' di info, appunto, a breve, insomma, in queste settimane faremo uscire, insomma, potete iniziare a inviarci le vostre adesioni e cerchiamo di capire, insomma, insieme quelli che saranno le giornate e gli orari. Naturalmente il corso sarà a numero chiuso, quindi sempre in base alle adesioni vedremo se farne, magari fare più riprese, perché comunque la nostra sala prove non è grandissima e quindi abbiamo pochi posti disponibili, che vi faremo sapere tra un po' appena calcoleremo quello che va calcolato. Quindi insomma saranno circa, non sappiamo neanche il numero delle lezioni in realtà, perché saranno circa sì, 3 lezioni per una parte e 3 lezioni per l'altra, quindi arriviamo a 6 lezioni totali e niente, non c'è bisogno di nessun requisito, c'è solo bisogno di aver voglia di imparare a suonare. Maestro, musica, per chi chiede la cassa, c'è la cassa. Io penso che disordine può nascere nel mondo se tutti, anche i servi, i poveri, si abituano a pensare come vuoi tu. Nel mezzo del cammin della mia vita, il mio lato troppo oscuro era per dire se la via era smarrita, senza più tenere conto del tempo trascorso nel mio limbo a dare un senso senza giri, in quanto se troppi galli a cantare non si fa mai giorno, ma rinunciare fa svanire l'incanto della vita con l'inganno, quando cessare il desiderio ti secca l'anima, nel cesso finisce anche il pensiero dell'esistenza, onirica esperienza unica, se non la cogli scivola via, se ti piace berota. Il veleno rimane, il disagio persiste, tu shit che shock, insisti a resistersi inseguendo piste, pesco come il tuo monster inside, prima del punto che ti imploda dentro, non a caso il mondo sarà quello che tu sarai. E allora eccoci qua, nell'attesa che il nostro maestro ci spieghi come funziona il corso, vi volevo un attimino parlare di dove siamo. Dove siamo? Per chi non ci conosce, qui siamo a L38 Squat, nella sala prove di L38 Squat, è un posto occupato, un quartiere popolare, Laurentino 38, quindi alla periferia sud di Roma. E niente, siamo qui da 30 anni e quindi è un piacere presentarci a voi. E niente, musica maestro, qui è un casino. C'è una parte di me stessa abbastanza compromessa con l'immagine di sé che si è scelta, l'altra invece che resta nascosta come uno scrigno prezioso che contiene la risposta, regno all'interno di esso come una regina senza re, il mio scettro e la corona sono impotenti su di te, so è vizio, è vizio, ma non mi sento sola, forse sono una messias ma non sono una sola, solo che attraverso il tuo specchio ho visto l'immagine di me stessa e la mia stessa inquietudine, immagina di oltrepassare l'interfaccia inutile e di addentrarti tanto da arrivarti a fondere. Il veleno rimane, il disagio persiste, tu shit che shock, insisti a resistersi inseguendo piste, per scova il tuo monster inside, prima del punto che ti imploda dentro, non a caso il mondo sarà quello che tu sarai. Mi perdo e mi so più chi sono, resetto. Il personaggio mi sta stretto l'ingranaggio di limitare il futuro ad un film alieno fine. Continuerò a inventare la sorte, a scrivere rime variabili, intercambiabili, mi tengo sulle... Niente, abbiamo avuto un attimo un problema tecnico, un problema di copione e tutto, quindi eccoci di nuovo qui. Allora, tutto risolto. Entriamo nel vivo. Abbiamo qui con noi il maestro, che ci è coloro i maestri che porteranno avanti il corso, questa prima parte di corso, che ricordiamo che è di approccio, primo approccio alla console, quindi i piatti e i CDJ. Sì. E maestro, professore. Ma sì, infatti, no, i piatti e i CDJ, mi collego a questo appunto in battuta, se vogliamo dire, e sì, è come insomma conoscere una console, quindi parliamo sempre di tecniche base per appunto per persone non esperte soprattutto, quindi linguaggi molto, molto semplici. E nulla, quindi sì, conoscere una console e poi vabbè, ci sono insomma differenti punti che trattano. Poi il corso per quanto riguarda sempre il corso di DJ, quindi di mixaggio, di approccio al mixer, al piatto, al CDJ stesso, al mixaggio di due brani insieme, insomma. Cioè, tipo, qual è questo è il piatto? E vabbè, questo è il CDJ, io sono ignorante. Sì, no, vabbè, io finisco. Sì, ok, allora questo qua è... Io voglio iniziare. Questo è un giradischi. È un giradischi, ok. Un giradischi e serve per ascoltare la musica in vinile, quindi in supporto differente dal CD o da altri tipi di supporti che vedete qui. Questo invece appunto è un CDJ, quindi qui non si vede, però si può infilare il CD. Abbiamo la possibilità di mettere un pendrive, una pennetta, un USB disk, insomma chiamiamola come vogliamo, e quindi poi andare a prendere dei brani che abbiamo selezionato dal computer, oppure infilare il CD in questa parte dietro e nulla, mandare i brani nella stessa identica maniera. Quindi scusa, professore. No, vabbè, troppo. Scusa, ma quindi posso suonare anche se non ha dischi? Questa cosa è importante. Sì, si può suonare anche non avendo i dischi. Da un largo periodo a questa parte abbiamo, diciamo, questa fortuna di poter dal CD poi addirittura poter suonare con una pennetta, quindi averla in tasca con parecchia musica, poi, perché adesso caratteristiche tecniche non le so bene neanche io per quanto riguarda i CDJ, però possiamo avere parecchi giga a disposizione, quindi con due pennette diciamo che ecco, insomma, abbiamo parecchia musica. Sarebbe come portare, non so, 40 borse di dischi, 50, non so, non saprei, però diciamo che si può suonare anche senza vinili, ma impareremo a suonare anche con i vinili. Mm-hmm. Ma quindi vabbè. Quindi non ti disturbo più, dici no. Un po' come, come sarà strutturato questo corso. Ma il corso in tutta semplicità, ripeto, perché comunque ci sono persone che sono veri maestri, non mi sento di dire sono un maestro, però grazie. Si può affrontare, diciamo, oggi lo capiremo in tre punti più o meno, perché poi... dopo che conosciamo una console potremo poi andare a vedere come capire la musica, per esempio, che è uno dei punti che si possono trattare sul corso di mixaggio, quindi sul corso per DJ, quindi capire la musica, che è una cosa insomma diciamo abbastanza importante appunto per chi si approccia all'inizio a una cosa del genere. E capire la musica, beh, insomma diciamo comprende la questione, il punto delle battute, di contare i battiti della musica, di capire un po' in grandi linee cos'è un BPM, insomma cose che ci possono facilitare poi ad entrare in concreto nella parte di mixaggio dei brani o del lancio del disco, per esempio come si fa con il giradischi, perché comunque si manda il piatto in avanti, quindi c'è un altro dei punti che è quello del lancio del disco, quindi capire la musica, lancio del disco e poi il mixaggio. Lancio del disco è proprio... Lancio del disco, io aspetta, mandiamo una traccia, poi vediamo, poi ci fai vedere come si fa il lancio del disco. È tipo... Che cos'è? Lancio del disco, nulla, praticamente tu prima di iniziare a suonare prepari dei dischi da lanciare alle persone che ti chiedono che traccia è questa, insomma, che vengono a scocciarti mentre suoni, ti prepari questi dischi e li lanci, li tiri fuori così e li lanci. No, allora, praticamente è il immettere una traccia durante l'ascolto dell'altra e mixarle insieme. Cosa significa? Cioè, significa che quando noi facciamo questo movimento qua e quindi lasciamo il disco, lo dobbiamo mettere in battuta con un'altra traccia che già sta andando. Ok, quindi dovremo curare questo tipo di movimento. Vabbè, faccio vedere. Sì. Stiamo cercando di far vedere il live. È un casino qua, ci sono mille microfoni, raga. Un casino. Prossima volta. Allora, che stai facendo, professore? Praticamente si cerca all'inizio della traccia. Adesso facciamo vedere così il live. Poi durante il corso andremo a precisare. Il lancio è quando praticamente facciamo questo movimento qua. Il movimento che ho appena fatto, si lancia il disco in battuta con l'altro e si lasciano andare i due dischi. Più il lancio è perfetto, meno dovete fare quello che sto facendo in questo momento, cioè sistemare la battuta dei due dischi. Meno il lancio è perfetto, più avete problemi dopo nel mixaggio delle due tracce. Quindi diciamo che in grandi linee è questa cosa qua. Vabbè, stessa. Non sappiamo se si è capito, perché insomma abbiamo delle telecamere fisse qui, insomma dal vivo è sicuramente un'altra cosa, però insomma questo è il lancio del disco, quindi tu lanci il disco, via, parte, mixi e poi con che puoi giocare, insomma, cioè, una volta che faccio partire il disco, che posso fare? Vabbè, padre, cosa devo disco, fare? Saremo presi in giro per tutto il resto della nostra vita. Vabbè, niente, praticamente ci sono, c'è una tecnica appunto che è questa qua, che insomma come mandare questa traccia e sovrapporla a tempo con l'altra, individuare un po' le parti del disco, quindi conoscere come è fatto un disco, perché appunto se noi prendiamo un disco in mano vediamo che ha delle parti più chiare e delle parti più scure. Io non so se in diretta si vede, però vabbè, insomma, ecco, è riuscire a capire quali sono le parti del disco per appunto individuare queste parti e poi durante il mixaggio avere la possibilità di fare tutto un po' più in maniera fantasiosa, appunto, perché sì, se si conosce meglio insomma si può fare un buon mixaggio conoscendo bene le parti e soprattutto leggere anche bene il disco, perché comunque anche al buio abbiamo la possibilità di riuscire a vedere e leggere il disco, e quindi insomma è una cosa molto importante, magari per chi suona, non so, al buio, però non so, in discoteca, parti meno illuminate, insomma c'è la possibilità di leggere questo pezzo di plastica nero rotondo. E poi vabbè, poi c'è un altro punto. È vinile, non è plastica. Sì, vinile, scusate. E poi vabbè, c'è un altro punto. Avevamo detto che erano in grandi linee tre, quindi capire la musica, la tecnica del mandare le due tracce, lancio del disco, la scelta del disco. E poi c'è il mixaggio, quindi che riguarda la parte del mixer, le tecniche base di come sovrapporre le due tracce gestendo i due canali separati che abbiamo qua, quindi uno che manda una cosa, uno che manda l'altra. Sempre io cerco di far capire in grandi linee con una dialettica base, però abbiamo dei canali che mandano i vari supporti. Qua c'è il canale del vinile, qua c'è il canale del CDJ e qui c'è il canale dell'altro CDJ, quindi vabbè, insomma, tecniche base per poter arrivare a una buona equalizzazione, utilizzare anche l'equalizzatore, insomma tutta la parte del mixaggio, quindi come sovrapporre le due tracce insieme, eccetera eccetera. Ok, maestro, una traccetta che qua stiamo chiacchierando una cifra. We are the fire. We are the fire. We are the We at the fire. Communication. E allora eccoci qua, e adesso siamo sempre qui, vi stiamo presentando quello che sarà il corso, la prima parte del corso di musica di autoproduzione, mixaggio e musica elettronica. E questa prima parte stiamo parlando dell'approccio alla DJ, alla console, lo vediamo sia con i piatti che con i CDJ. È importantissimo, perché imparerete entrambi le tecniche, in modo che se non ci avete dei dischi a casa comunque potete suonare tipo la sottoscritta. E adesso il maestro ci fa una dimostrazione pratica, passa pure da una cosa all'altra, insomma fa una cosa figa. Quindi ci prendiamo un breve stacco musicale col nostro maestro live, e a fra poco. It's in my mind. It's in my heart. Stai mixa tutta musica, insomma, dello stesso stile, no? Ma una cosa che a me mi è sempre piaciuta fa è tipo mixa musiche con stili diversi, che ne so, tipo il neomelodico con la techno. Come posso fa? Il neomelodico con la techno. Allora, sì, abbiamo una risposta per questo. E, la tecnologia nel tempo ci ha facilitato a livello di mixaggio. Perché? Perché praticamente abbiamo questi strumenti qua che sto toccando proprio in questo momento, che sono i pitch, quindi questa parte qua anche nel vinile, quindi queste parti qui servono appunto per gestire la fase del tempo. ok, quindi muovendo questo verso l'alto abbiamo meno velocità, muovendo questo verso il basso abbiamo più velocità. In quasi tutti i supporti mondiali del mondo della Terra più o meno va così, quindi ricordiamo sempre che questo è un corso base, quindi io parlo in questa maniera proprio per cercare di facilitare, spero, tutto. Quindi questa parte qua è la parte che ci porta ad aumentare e diminuire la velocità dei due supporti per poter arrivare a una diciamo velocità media in cui possiamo mixare queste due parti, ovvero mettiamo un numero tipo questo è 128, questo è 136, per aspetta, esempio tipo quello che stiamo a sentire di sottofondo, quant'è? Allora lì siamo sui 142 battiti per minuto, però qui andiamo poi sullo stretto, sul corso, quindi questa è una cosa un po' generica, però neomelodico con la techno sì, si può fa perché muovendo questi cosi qua che è il pitch e quindi la velocità possiamo cercare di trovare una velocità media per accostare i due brani, neomelodico con la techno. Poi spiegheremo anche come fare nel corso, sperando di poterlo fare il più presto possibile. Fosse sintonizzata e sintonizzata d'ora, siamo in diretta dalla sala prove di L38 Squat, sala prove autogestita, autocostruita, ricordo decine di iniziative per riuscire a insonorizzare e decine di ore di studio tra l'altro per capire come insonorizzare in mezzo ai palazzi e non far sentire le bombe a mano che ogni tanto tiriamo, e da qui parte l'idea di un corso. Si sono acquisite tantissime competenze negli anni, tantissime esperienze che si sono intrecciate, tante relazioni, tanti momenti di sia divertimento sia di studio e condivisione di saperi che ci hanno riguardato. La musica non è una cosa che nasce a caso qui, nasce da anche tante passioni diverse per generi musicali diversi. Qui dentro sono nate compilation autoprodotte di musica, ma anche concerti live. Tante persone si sono potute sperimentare, incontrare e conoscere. Siamo in momenti abbastanza duri, non si balla sotto cassa da un bel po', ma questo lo dico stando un po' alle mie passioni. Quindi magari è un buon momento invece per imparare, un po' crescere, un po' studiare, acquisire quelle competenze che non sono messe a profitto, sono competenze che sono a disposizione di tutte e tutti quanti, sia nel divertimento sia nella necessità di fare eventi che ci permettano di tirare su soldi, mai per mettere in tasca, sempre per contribuire ai posti occupati o alle casse benefit per i prigionieri e le prigioniere. Più o meno sono state sempre queste le ragioni che hanno mosso le iniziative qui e non solo. Ti va di raccontarci un po' come è nata la tua passione per la console e come ti sei avvicinato a questa roba qui e come l'hai usata nella vita tua? Sì, io ho appreso il tutto con il tempo soprattutto, quindi la parte del mixaggio va al di là, perché è stata, per riprendere il tuo discorso, è stata una passione che è nata soprattutto e tendo a specificarlo in luoghi e ambienti come questo, e quindi nasce una passione musicale dentro di me anche per un avvicinamento a determinate posti, a determinate strutture, a determinate situazioni che comunque mi hanno portato anche a una crescita politico-musicale, perché poi c'è anche da dire questo, che è dentro il mio bagaglio culturale musicale, va oltre, diciamo, il mixaggio. Perché poi nella mia città comunque sono state molte controversie, molte passioni, molti momenti belli, molti momenti anche, diciamo, un po' più negativi, senza dire brutti. Però ecco, la passione musicale nasce dentro di me e cresce tuttora, anche perché sono, insomma, vicino a situazioni che mi hanno sempre portato a una crescita interiore. Insomma, ecco, scusate, è un po' live, quindi no, va bene, cioè, va bene, stiamo improvvisando, non abbiamo un copione. L'intento di quest'oretta, oretta e mezza di diretta è quella di presentare, fare un po' di promozione a un corso che avverrà in presenza. La nostra idea qua l'avete visto, in questi due anni abbiamo organizzato poche iniziative aperte e facciamo difficoltà a capire come può avvenire un attraversamento degli spazi dello squat con una autotutela massima della salute collettiva. Abbiamo spostato la maggior parte degli eventi, delle iniziative in cortile o in balcone, e quindi nel periodo invernale è un problema ulteriore quello che ci stiamo ponendo. Stiamo cercando delle modalità, è una discussione che va avanti davvero da due anni fa. Abbiamo capito quali erano le vite sacrificabili per lo Stato durante una pandemia, ci siamo mossi immediatamente al fianco delle persone detenute, scegliendo anche di rompere il divieto d'uscita, il lockdown, per unirci alle proteste delle persone che vedevano la propria vita a repentaglio nelle celle sovraffollate. Ma dove invece scegliamo di vivere bene, vogliamo non dare per scontate né le norme imposte dallo Stato e soprattutto averci una tutela molto più alta di quella che lo Stato ha dimostrato in questi tempi, ovvero solo a difesa del profitto e non della salute delle persone. Quindi capire come fare iniziative, laboratori, qua è un discorso continuo. Il corso, se avrà necessità di avere più puntate, più cicli, lo stabiliamo insieme. L'importante è che ci contattate, ci scrivete, così si stabilisce un primo momento per iniziare il corso live nel mese di febbraio. E poi vediamo in base alle partecipazioni, la voce che gira è quante puntate fare di questo corso. Lo vogliamo fare in presenza per dare a tutte e tutti quanti la possibilità di accedere a degli strumenti tecnici che non sono a disposizione di tutte e tutti quanti. Immaginate che la tecnologia costa e per noi significa invece ogni volta mettere insieme sforzi, energie, i concerti, le piccole iniziative, le cene, i pranzi che si organizzano qua, cercano di acquistare cose che poi vengono messe a disposizione gratuita di tutte e tutti quanti. Infatti su questo lo vogliamo ribadire, sarà un corso assolutamente gratuito come ogni tipo di attività che avviene qua. Lo sapete, ormai sono quasi 31 anni che non si paga nessun tipo di ingresso per entrare qua dentro. Eccoci di nuovo nuovamente in diretta, almeno su Instagram abbiamo avuto dei problemi tecnici, non sapevamo che durasse massimo un'ora e quindi eccoci con una nuova diretta e continuiamo tecnici. Con il nostro maestro che ci fa sentire un po' di musica e poi proseguiamo. La prima ora e facciamo un breve riepilogo insomma di quello che ci siamo detti e dette. Siamo qui nella sala prove di L38 Squat e vi stiamo parlando di quello che sarà il prossimo corso di musica elettronica. Abbiamo qui con noi un professore e lo ribadiamo il corso sarà su prenotazione, quindi vi invitiamo a tutti e a tutte a scriverci sui nostri contatti social, mail, ci mandare un messaggio, insomma come vi pare, e per prenotarvi. In base alle prenotazioni capiremo la programmazione. Ricordiamo, il corso è diviso in due parti, una prima parte di approccio alla console, quindi si studierà come mixare sia con i piatti che con i CDJ, e la seconda parte invece tutta quella relativa alla produzione di musica, quindi un approccio alla sintesi e al sound design. Queste sono le un sound design, appunto. E questo primo corso di approccio alla console si dividerà in tre parti, una prima in tre lezioni, mettiamola, tre appuntamenti, ecco. Un primo appuntamento più teorico, dove si parlerà, come ha detto il maestro, capire la musica, quindi tutta la parte relativa alle battute, a contare i battiti, i BPM, giusto maestro? Sì, esatto. Ok. Una seconda parte relativa al lancio del disco, questo lancio del disco che tutti ci invidiano, quindi si parlerà della tecnica, si individueranno le parti, la scelta del disco, che bordino, sì, esatto. Lo so, però sto a leggere un fogliettino, vedete, eccolo. Ma non so cosa vuol dire, maestro. Quelli sono i miei promemoria, ragazza. No, nulla, praticamente lo dobbiamo rispiegare, cioè avevamo detto in grandi linee, ma lo rispieghiamo. In sintesi, vabbè, niente, individuare la scelta del disco è comunque avendo una vasta gamma, a proposito di musica elettronica o se vogliamo anche di musica punk o di qualsiasi tipo di musica, però ecco, scelta o neomelodico con techno, appunto, lì dobbiamo essere minuziosi nella scelta del disco per appunto far accostare il brano neomelodico a quello techno. Quindi okay. Scelta del disco intesa così. Ok, ok. E poi avremo la terza e ultima parte, è quella più divertente, relativa al mixaggio. Quindi il mixer, tutte le tecniche base, piatti, CDJ e tutto il resto. Vi invitiamo giovedì prossimo alla seconda parte del corso, relativa alla sintesi e al sound design. Ho imparato, grande. E adesso piano piano, insomma, vi lasciamo con il nostro maestro, che i nostri maestri che continueranno a mixare la musica finché gli va, e poi vi diamo la buonanotte. Dai, regà. this day and at this time you are sentenced to die by lethal injection. Are you afraid? Stiamo volgendo verso la fine di questa trasmissione, di questa diretta, e vi vogliamo dare la buonanotte a tutti e a tutti. Vi invitiamo, se siete interessati al corso che si terrà a breve, insomma da febbraio, appena potremo ritornare tutti e tutte in presenza, vi invitiamo a scriverci sui nostri contatti social per prenotarvi. Vi ricordiamo che il corso non ha nessun costo, ma che è a posti limitati e quindi vi dovete prenotare. Maestro, faccia un saluto. Sì, quindi ci vediamo giovedì, il prossimo giovedì, sì, esatto. Ci volete dare un'anticipazione sul prossimo giovedì? Beh, il prossimo giovedì sarà volto, diciamo, più alla parte live, presumo, sarà così invece, no, non presumo. E quindi in grandi linee sempre tutta la parte che serve per la produzione musicale, non per il mixaggio. Oggi abbiamo parlato in grandi linee del mixaggio musicale, quindi in grandi linee sempre sovrapporre due tracce differenti insieme, e invece il prossimo giovedì sarà più volto verso la parte live, quindi la produzione musicale, editare, costruire un suono partendo da una piccola porzione di suono, arrivando addirittura tramite la sintesi a un che ne so, giro di basso, non so, insomma, quindi più la produzione musicale fatta in casa, autoprodotta. Perché qui ricordiamo che, a parte se non sono dischi nostri, mixiamo sempre tracce che non facciamo altro sul momento, o di qualcun altro. Ok, bene, dai regà, noi vi salutiamo, vi lasciamo con un po' di musica, no, con nessuna musica, basta, ve levamo tutto, mo spegniamo tutto, e buonanotte, dai.